puerta voló lungo nell'ombra che l'uomo siede e beve. Mentre già la nebbia dell'alfa lampeggia, si spegne e deve parcheggiare lungo quella strada che lui conosce già. Nella parte più povera e nera di questa città, lui fa voto nell'ombra e le parla parole di malinconia. E se pure volesse abbracciarla, lo sa che lei andrebbe via. Lei si volta, lui vuole ordinare qualcosa al bar, ma lei regge bene l'alcol e lui sa che non si sbottonerà. La cameriera nera non parla bene l'italiano, ma sorride spesso e fuma, è un gatto che viene e va. Poliziotti nel nostro locale, dice no, non ne possono entrare. E a te piccola e bionda Alice, che cosa ti posso portare? Lui già li vede, lui già li vede, lui già li vede, già già già già li vede. Conduce la squadra, gli occhiali è nervoso, il nero spilungone, ma il coltello c'è la ricciolino che dice ma che bella riunione. Un po' indietro sta il terzo con l'orecchino ed il barbone, forse un po' effeminato, ma i muscoli sono da esposizione. La cameriera nera guarda il fuoco che sta sotto il bancone. Si tiene pronto a fare fuoco con il suo cannone. L'uomo alza la sedia e li guarda come se fossero zanzare. Questo ferma lo spilungone che ritarda un poco a parlare. Lui già li tiene, già li. Lui già li tiene, già, già. Ui, e lui già li tiene, Rastafari. Impossibile. Oh yeah. All right. Alice centro della contesa fa finta di non vedere, fa la piccola donna in difesa, dice no, io non voglio sapere. L'uomo si alza e tira fuori qualche banconota, sorride alla cameriera nera, si volta e se ne va. La rabbia di Alice lo insegue ancora per la città. lei voleva vedere il suo sangue, ma non ci riuscirà, no, no, ci riuscirà, no, no, ci riuscirà, no, no, ci riuscirà, già, già, già. Già, già, già. Già, già, già. Catorce. Ma ci sarà così. Ra. Reggae. Ruth. Ra. Reggae. Ruth. Ra. Reggae. Sta guai. Ma ci sarà così. Rastafari. Dammi la chissà, dammi, dammi una chissà, dammi una chissà, ma si insegna a farmi, una soglia, di chi ne vive, una vive in acuto, una vive in acuto, una fai una busta, sì. Ah sì, dammi una busta, dammi una busta, dammi la si segna fatti, guai, dammi una busta, dammi una busta, va su bain, la si segna, oh bain, oh bain, oh bain, dammi una busta, sta guai, sta guai, all right. Grisè così, dammi una pizza, dammi una pizza, dammi una pizza, dammi una pizza, dammi una pizza, dammi una pizza, ah sì, dammi una pizza, dammi una pizza. Che c'è?